Io sono un bombarone, quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia. Io sono un bombarone, quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia. Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore io mi dedico a sto suono. E tutto indipendente nasce dal mio cuore. Croce più microfono, il mio detonatore. Come mine sottoterra, spade tolte dalla roccia. 3 metri sopra il cielo, cado in testa sopra moccia. Letame sulla faccia, delante con la luce. Letale sulla traccia, urla come della roccia. Senza di te, farò da me, faccio per te. Senza perché, faccio del rap, uccido il re. Estremo nel gesto, come Gaetano Bresci. È una parte domanda, amico, quando cresci? Così pensava forte, un trentenne disperato. Può darsi che ho fallito, ma almeno ci ho provato. Con Willy Valanga, mister da tanti l'onesto. A piccia chissà miccia sulle mani per l'innesco. Io sono un bombarone, quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia. Io sono un bombarone, quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia. A chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, compa chiedimi scusa e non lo so se ti perdono. Stiamo calmi, ok? Ti rendo tutto più chiaro. Quando esplodi puoi farmi ciao con la mano. Io sotto una maschera da buono mi nascondo. Costruisco bombe arrotondo con lavori che alla fine mi permettono di scrivere. Ma a pane e acqua se mi voglio esprimere è difficile oggi fare il bombarolo qua. Per ogni uomo esiste un chilo di tritolo. Io spalanco le porte della mente come Jim Morrison se parlo col mio bong più che con la gente. Lo so che suona strano ma purtroppo o salta in aria la città o sono io che scoppio. E non mi sono più sentito così solo da quando sono diventato un bombarolo. Io sono un bombarolo e quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia. Io sono un bombarolo e quando canto il sottosuolo mi ringrazia. È la musica la prima che mi abbraccia. Senza divisa e senza armi bombardo di parole questo stato di minaccia.